tenere una ragazza di sera. Se restiamo da soli, soli, va tutto male, non si può neanche cantare. Forse non ci crederete, ma è vero, la malinconia ci prende di sera. Con la barba già fatta, soli, senza nessuno, ce ne andiamo per la città. Gira e rigira, fare valere, ci sarà pure un'anima buona che si accompagni con noi, anche perché non la troviamo mai, mai. Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera. Se restiamo da soli, soli, molto male, non si può neanche cantare. Gira e rigira, fare valere, ci sarà pure un'anima buona che si accompagni con noi, anche perché non la troviamo mai, mai. Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera. Se restiamo da soli, soli, va tutto male, non si può neanche.